Lon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Van Loon a cura del Caso S. Van Loon come Henrik Willem, noto storico e divulgatore olandese. Caso S come il progetto di comunicazione storica ideato da un gruppo di studentesse e studenti bolognesi. Ogni due settimane in loro compagnia si parlerà proprio di storia attraverso approfondimenti e spunti di riflessione. Non mancheranno però i collegamenti con l'attualità. E dato che ormai mancano pochi giorni alle celebrazioni per il 25 aprile, oggi il Caso S ci racconta del la liberazione di Bologna, avvenuta però qualche giorno prima. Buon ascolto! Ciao a tutte e tutti da Elena e Debs. Chiunque ha presente il 25 aprile come data in cui si celebra la liberazione dal nazifascismo, ma non tutte le città del nord Italia furono liberate allo stesso modo e nello stesso momento. Forse in pochi al di fuori dei bolognesi, e chissà che anche loro non abbiano qualche dimenticanza, sanno che la città delle due torri conobbe la fine dell'occupazione un po' in anticipo, il 21 aprile 1945. La risalita della penisola da parte delle truppe anglo-americane si era fermata nell'autunno del 1944 sulla linea gotica che passava sulle montagne poco più a sud di Bologna e lì sarebbe rimasta fino alla primavera del 45. Per allora gli alleati ripresero ad avanzare tra violenti scontri sull'Appennino e nelle Romagne. L'ottava armata liberò Castel San Pietro il 17 aprile e dopo altre sanguinose battaglie l'esercito alleato si assestò due giorni dopo all'altezza di Ozzano. In città sia tedeschi e fascisti che le file della resistenza, colti di sorpresa dal rapido spostamento del fronte, si chiedevano come muoversi. Per i primi l'interrogativo era: bisogna lasciare la città senza combattere? Mentre per i secondi sorgeva il dubbio su come e soprattutto quando dare inizio all'insurrezione armata. Il comando della resistenza aveva messo a punto un piano, ma poche ore di differenza nell'attuarlo potevano cambiarne l'esito. Nel comando tedesco invece prevalse la prudenza e dalla sera del 20 aprile le truppe del Reich partirono verso nord in tutta fretta, lasciando i repubblichini allo sbando e senza ordini. D'altra parte si è spesso sentito ripetere che a Bologna l'insurrezione non avvenne come preventivato perché nella notte tra il 19 e il 20 aprile venne catturato e ucciso dai fascisti Sante Vincenzi, il partigiano che faceva da ufficiale di collegamento tra le varie brigate e che avrebbe avuto gli ordini dell'insurrezione. In un modo o nell'altro, nelle primissime ore del mattino del 21 aprile, le formazioni anglo-americane affrontarono gli ultimi scontri con alcune squadre tedesche presso il ponte crollato sul Savena. Attraversarono il fiume e si diressero verso la città entrando da est sulla via Emilia. Già a Rione Pontevecchio il rumore dei carri armati in sfilata destò le prime sorprese da parte della popolazione, che iniziò pian piano ad uscire di casa per festeggiare i soldati che entravano in città. Le truppe dell'ottava armata furono le prime ad attraversare una città sbigottita e incredula. Alla testa marciavano il secondo corpo d'armata polacco comandato dal generale Władysław Anders, la brigata Majella, partigiani abruzzesi inquadrati nell'esercito alleato, i reparti Legnano, Friuli e Folgore del ricostituendo esercito italiano. Che fine avevano fatto i tedeschi? E perché nessuno sparava un colpo? Era arrivato il giorno della liberazione. Le truppe arrivarono in piazza Vittorio Emanuele, oggi piazza Maggiore, insieme ai partigiani bolognesi che nel frattempo avevano già occupato questura, prefettura, carceri e caserme. Nessuno di coloro che erano a Bologna quel giorno avrebbe dimenticato il 21 aprile, ma la maggior parte delle testimonianze comprendono lo svegliarsi di soprassalto di primo mattino a causa del rumore proveniente dalla strada finché qualcun altro in casa capiva: arrivano gli americani. Uomini, donne e bambini si riversarono nelle strade per fare festa con tutto quel che avevano: fiori, campanelli, strumenti musicali, fazzoletti rossi e tricolori al collo. Anche dalle altre porte iniziarono ad arrivare le altre formazioni alleate. Tutti erano impressionati dal confronto tra i partigiani, sorridenti, felici, ma spesso magri, coi vestiti a pezzi perché provati da lunghi mesi di fame e freddo, e i soldati puliti e in salute che lanciavano dei carri armati, cioccolate e sigarette. Qualcuno era sconvolto nel vedere per la prima volta un uomo di colore. Infatti l'esercito britannico incorporava soldati che provenivano da tutto il Commonwealth. Poi a Bologna nello specifico c'erano soprattutto nepalesi e neozelandesi. Qualcuno piangeva nel rivedere un parente andato in montagna mesi prima. Qualcun altro tornava a casa. Il comando partigiano si insinuava insediò ufficialmente nel comune di Bologna. Finalmente si era liberi di piangere i morti, i caduti della resistenza che fino a pochi giorni prima venivano fucilati contro il muro del palazzo comunale vicino alla sala borsa, dove i loro corpi martoriati erano lasciati esposti per giorni. Già dal pomeriggio dello stesso 21 aprile le donne avevano riempito quel luogo di fiori, foto e oggetti di chi non c'era più, di chi era stato partigiano e antifascista ma non aveva potuto vedere il giorno per cui aveva combattuto. Sarebbe iniziata di lì a poco la breve stagione della giustizia partigiana, magari condita di qualche risentimento personale, ma nel complesso più che regolata. Sarebbero incominciate le tensioni tra comando alleato ed ex combattenti e i proprietari di casa avrebbero iniziato a sloggiare gli sfollati e soldati in città ad arrecare qualche disturbo alla popolazione. Forse già qualcuno si sarebbe chiesto se fosse poi vero che rispetto al ventennio fascista era cambiato tutto. Ma in quella giornata di aprile tutto sembrava possibile. Bologna liberata preludeva l'Italia liberata alla cacciata dei tedeschi e di Mussolini alla fine della guerra. Cosa resta oggi di quella giornata di festa di 67 anni fa? Le istituzioni bolognesi non hanno dimenticato le formazioni che contribuirono alla liberazione della città. In particolare il quartiere Savena ospita un parco dedicato a Vladislav Anders, il monumento alla Brigata Maiella, nonché i cimiteri militari del Commonwealth e quello polacco. In piazza Nettuno oggi si trova il Sacrario con le 2059 formelle che commemorano i partigiani e le partigiane, le staffette e gli antifascisti caduti per la liberazione. Ma sono sempre quelle stesse istituzioni che oggi drammaticamente, senza vergogna, chiudono un occhio su convegni neofascisti e a malapena si lamentano dei manifesti di fascismo e libertà apparsi da poco sui nostri muri cittadini. Resta comunque una certa coscienza antifascista fra chi abita Bologna, che non manca di manifestarsi in tutte quelle occasioni in cui l'ideologia fascista, più o meno palese, rialza la testa e prova a trovare un suo spazio di cittadinanza. E con questo spunto di riflessione vi invitiamo a visitare il nostro sito www.casos.org e buon 25 aprile, anzi 21!